sereno qua giù, se la luna lassù si accende, si accende, si colorano i cuori mentre sbocciano amori e fiori. Chissà se questa notte la luna brillerà, brillerà, se la luna sul cielo.